Paolo, buongiorno. Paolo c'è? Sì, sono Paolo. Niente, voglio portare la testimonianza dell'esigenza mia di cambiare pelle periodicamente, voglio dire, che ne so, ogni 15 anni. Facevo il parrucchiere, Uno scrub poi, ventennale. ecco, poi per questioni contingenti, non economiche, perché stavo in campagna, ho venduto il negozio, ho aperto un maneggio. Poi la mia passione per l'elettronica dopo 15 anni mi ha portato a ideare un dispositivo medicale e quindi ho chiuso il maneggio E cosa fa e questo dispositivo medicale? analizza la pelle, i nei, eccetera. Quindi Cambio anche pelle. in Sì, ma con quali imparare nuovi. competenze? Quali Mi dica? competenze, scusi, da parrucchiere a cavallaro a costruttore di un delicato meccanismo per analizzare la pelle? Ecco, però quindi immergersi proprio nelle nuove attività, quindi scientemente dice, vabbè, io mi metto in gioco in questa nuova, e questo anche sentimentalmente, perché ho cinque figlie da tre donne diverse, l'ultimo l'ho avuto 10 Diciamo, mesi ogni fa, fase quindi a corrisponde a una 60 anni, per gestazione. cui Ma, è per il fatto esempio, di quanti figli divertirsi. appartengono alla fase da barbiere? Come? Quanti figli ha concepito nella fase che era barbiere? Tre. Nella fase cavallaro? Uno E uno nella fase elettronica? fase medicale. Ah, benissimo, vabbè, vedi. Giuseppe, Barbiere era più vedi, i prolifico quella cambiamenti di pelle fase. comunque migliorano senz'altro la specie. E comunque portano fecondità e grandi risultati.